cerco tra la gente, in centro o quando mi va. Cambio strada e non mi volto a guardare quello che farai, che so già. I miei occhi non brillano, mi si è tolta anche la voglia di riunire i gocci calpesti, le mie iridi, e non riesco a curare i graffi. E parli male di me e dei tuoi sforzi invisibili. Cerco nel passato, che tu hai soltanto già. Ti cerco ma cambio strada. Quando mi va.